nuovo gioco. Benvenuto tra noi al Pitta Planet Show Woman. Io ci provo e che sarà mai, durerà solo un momento. Sono fatto così, io se non tocco non credo. E nonostante la mia schiavitù, arrivederci ancora. Vado in camera con la tipa che mi consola. E nonostante la poca virtù, chi se ne frega allora. Annuncio se la mia sera va ed è. Poca virtù, chi se ne frega allora, a luci rosse la mia sera va.